l'unica cosa è che sono un po' stanco, perché questi periodi lavoriamo bene, quindi un po' di stanchezza più c'è, ma meglio la stanchezza è avere lavoro che non avere lavoro, ma non è così. Siamo veri. Gianni, sta guardando su internet, c'è questo HP Builder, no? Spezza correttore, esattamente, è molto bello, eh. E sui pini. Praticamente c'è questo rosa che va per il raccordatore a capi 1000 e vicino a 1000 watt. E un rosa metto là a mettere il raccordatore. Ecco, c'è un rende questo. Così, 4 radio 3. Ma tre, tanto sensibile. Come sto andando? Ma come sto andando io? Non l'ho segnato. Questo è più chiaro. Quindi se ti interessa, ce l'ho io un microfono come si deve, stazione base, che ti fa uscire un po' fuori. Non so proprio comprare. Perché tu puoi fare la stazione, comprare la roba buona dall'inizio. E dopo non tocchi più nulla. Io questa roba qua ce l'ho tutta fatta da un po' di anni e non ho più toccato nulla. Adesso mi si è rotto un pezzo, lo devo ricomprare nuovo, ma quello lì è normale perché anche vecchio, era anche vecchio, come ci avrà avuto una ventina d'anni, forse fa anche il rampo e si rosa. Questo il video va giusto, ma c'è il rampo. Adesso lo prendo e vado via e riprendo. Io adesso me ne vado per posarmi già, che sono stanco dal lavoro e poi stasera devo rientrare. Stasera e poi almeno 2 giorni di vacanza me li faccio, va? 9 e 7 mesi. Faccio 5 mesi e 7 mesi. Perché cos'è fa quello che vuoi? E questo lavoro c'è un principale che ti comanda. Bene, ma comunque non vale più quella legge. Poi da, già, ti lascio. Buona serata. Tanti auguri a te famiglia se non ci risentiamo. E tante cose belle, dai. Buon Natale e felice anno nuovo. Ciao ciao.